Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata. Subito la mail, cari radioascoltatori, un abuso al giorno @radio24.it. Vi do anche l'indirizzo del mio blog, Guardie o Ladri. Lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Su questo blog, che potete anche trovare attraverso un semplice motore di ricerca scrivendo appunto blog e Roberto Galullo, troverete anche degli articoli di approfondimento che io ho dedicato alla questione criminalità organizzata nel Lazio. Avevo promesso ai miei radioascoltatori, quando abbiamo avuto ospiti due consiglieri regionali del Lazio, Antonio Cicchetti per il centrodestra e Luisa Laurelli per il centrosinistra, che sarei tornato a parlare di mafie nel Lazio e segnatamente nella provincia di Latina. L'avevo promesso perché Antonio Cicchetti, molti di voi lo ricorderanno, aveva lanciato una provocazione forte che oggi noi raccogliamo con i nostri ospiti. Aveva detto: se veramente la giunta regionale vuole passare dalle chiacchiere, dalle parole ai fatti, esca dal mercato ortofrutticolo di Fondi, tolga le nomine che ha effettuato. Per chi non lo sapesse, il mercato ortofrutticolo di Fondi è uno tra i più grandi in Italia, ospita circa 120 aziende ed è da tempo chiacchierato attraverso indagini delle forze dell'ordine, attraverso inchieste della magistratura, numerose interrogazioni parlamentari, è da tempo chiacchierato perché pesanti sarebbero le infiltrazioni della criminalità organizzata. Tra gli ospiti avevo chiamato anche un consigliere regionale, Romolo Del Balzo, di quell'area, tanto che è consigliere comunale e presidente del consiglio comunale di Minturno. Romolo Del Balzo ci ha fatto ufficialmente sapere che non vuole avere niente a che fare con questa trasmissione, con chi vi parla. Per me, lo dico pubblicamente, è un onore non avere niente a che fare nella vita privata con Romolo Del Balzo, ma il mio ruolo di giornalista mi imponeva di chiamarlo. Credevo quindi di fare un piacere, perché la democrazia è dialogo, rifiuta questa mano tesa. Ne sono orgoglioso come privato cittadino, non come giornalista che avrebbe voluto averlo qui ospite, e mi sarebbe tanto piaciuto fargli moltissime domande per lui imbarazzanti. Ma passiamo ai nostri ospiti. L'assessore regionale alla sicurezza Daniele Fichera, salve Fichera. Buongiorno. Edoardo Levantini, che è presidente del comitato antimafia Anzi e Nattuno. Buongiorno Levantini. Buongiorno. E Pino La Rocca, che è appunto il presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi. Buongiorno La Rocca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Fichera, voi dovreste uscire dal mercato ortofrutticolo per dare un segno chiaro di distinzione, di presa di distanza dalle mafie. Raccoglie questa provocazione del consigliere Cicchetti? Non mi faccio indicare dal consigliere Cicchetti quelle che sono le priorità per l'impegno della regione contro la mafia. Noi siamo, per la prima volta dopo anni, abbiamo tenuto un consiglio regionale dedicato al tema della mafia, cosa che non si era mai fatta. Stiamo sviluppando un notevolissimo impegno sul fronte dei beni confiscati. Non credo che sia il consigliere Cicchetti a doverci dire qual è il segno che noi dobbiamo dare. Ecco, ma uscire rappresenterebbe un segno di rottura, nominando vertici nuovi o comunque dando un'attenzione diversa, oppure è soltanto una provocazione politica fine a se stessa? Io ho l'impressione che sia una provocazione. Dopodiché, diciamo, non sapevo di questa esternazione del consigliere Cicchetti. Diciamo, valuteremo la questione del MOF, ma francamente mi sembra stravagante che sia il consigliere Cicchetti a indicarci una priorità del genere su questo argomento. Mi sembra che anche gli ultimi, quanto è accaduto la scorsa settimana, rispetto a quello che è stato detto dal centrodestra in consiglio regionale, ci faccia capire che, diciamo, la questione è diversa. Benissimo, allora io a questo punto chiamo in causa il presidente Pino La Rocca. chiedendogli come reagisce alle attenzioni mediatiche. Io ricordo anche un vostro durissimo comunicato stampa più di un anno fa, a seguito di alcune mie inchieste sul Sole 24 Ore, in cui dicevate: noi non c'entriamo assolutamente nulla con la mafia rimane fuori dalle nostre porte. Ma allora che cos'è? Tutto un grandissimo montaggio privo di fondamento, quello che parlamentari di interrogazioni, la stampa sui media e molti magistrati stanno ponendo sul vostro mercato? Sbagliamo tutti, Presidente? No, io non credo che la questione deve essere impostata con chi sbaglia o meno. Io credo che sia giusto essere attenti al problema della legalità, al problema delle possibili infiltrazioni, perché credo che questo possa succedere e succeda nei luoghi dove si svolgono le attività economiche importanti. Penso ai porti, ai mercati, dove l'economia gira c'è questo tipo di attenzione. Ecco, ma questo è un dato di fatto, questo è un dato di fatto. Un dato di fatto dovrebbe essere quello che chi presiede o chi nomina dovrebbe invece fare in modo che sia un'isola felice, un porto franco della criminalità organizzata, ciò che si presiede o ciò che si governa. Non è d'accordo? Sono d'accordissimo. Io le stavo dicendo che è giusto che ci sia attenzione. Però voglio anche rilevare questo, che finora noi possiamo dire che sia la società di gestione e sia gli operatori che operano all'interno del MOF hanno sempre dimostrato una grandissima attenzione a questo problema, non fosse altro perché gli operatori sarebbero i primi a pagare qualora infiltrazione malavitose e il malaffare si facesse commissione con l'economia. Ecco, ma perché usa il condizionale? Esclude che ci siano state queste pressioni? A me risulta il contrario. Ecco, allora io le, così con molta tranquillità le direi, io vivo questa realtà da molti anni. Io credo che per quanto riguarda il commercio ortofrutticolo non ci siano queste pressioni di cui si parla. Se questo ci fosse, allora sarebbe giusto, come giusto, che si indaghi, cavrino fuori le mele marce che eventualmente ci possono essere, perché questo è l'auspicio di tutti quanti noi. Benissimo. Io le dico di più, prego, se mi permette, sì. Le dico di più. Io mi augurerei che qualcuno venisse a fare delle inchieste, giornalisti, per vedere se c'è veramente qualcuno che è obbligato a comprare per forza da una parte o se qualcuno è obbligato per forza a vendere da una parte. Io le dico che questo sentore non esiste, non c'è. Se poi le indagini di cui si parla sono quelle relative ai trasporti, cosa che si è stata credo un paio d'anni fa, poi ripetuta. Sì, assolutamente attenzionata, certo. Cioè, queste sono questioni che non riguardano la gestione del centro agroalimentare. Ecco, la sua presa di posizione è chiarissima. Io vorrei a questo punto chiamare in causa un osservatore terzo, diciamo così, che sul territorio vive e che da anni denuncia, Edoardo Levantini. Allora, Levantini, qual è la sua riflessione su quanto finora stiamo dicendo? Guardi, io credo che bisogna partire da alcuni dati di fatto. Nel 2007, nel 2006 e una settimana fa ci sono state delle importanti operazioni antidroga che hanno portato a dei sequestri in cui si evince dalle indagini della magistratura di Latina e della direzione distrettuale di Catanzaro che questi tir carichi di droga puntavano verso il MOF e alcuni partivano verso il MOF. Mi riferisco alle indagini della Lazio al Fresco del 2007 e mi riferisco al sequestro di una settimana fa di un tir con 310 kg di hashish proveniente dalla Spagna. Questi sono dati di fatto, ovviamente. Da qui a dire che il MOF è controllato dalla criminalità organizzata ce ne passa. No, ma questo infatti non lo ha detto nessuno, Levantini. Appunto, ora, ovviamente, cosa si dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare la politica e l'amministrazione del MOF, io credo? lavorare con le forze dell'ordine per, attraverso per esempio un protocollo sulla legalità e sulla trasparenza degli appalti, e anche a lavorare per una presenza fisica fissa delle forze dell'ordine. Ecco, questo mi piace come proposta. Quella del protocollo di legalità, le dico sinceramente, a me molto meno, perché il protocollo di legalità, per come li ho vissuti io in questi anni avendoli raccontati, sono acqua fresca. Mi piace invece di più l'idea del presidio di legalità fisso all'interno. Assessore Fichera, l'idea le piace? L'ipotesi di Levantini è interessante, penso di poter dire che mi farò carico di verificare la fattibilità di questa proposta. Ecco, benissimo. Con le altre amministrazioni. Benissimo. La Rocca, piace anche a lei l'idea di Levantini? Perfettamente d'accordo, è una proposta che noi nel pieno di delle polemiche che spesso ci sono state abbiamo avanzato anche noi siamo disponibili a mettere a disposizione i locali gratuitamente, quindi non si devono né costruire eccetera, a disposizione delle forze dell'ordine quando riterranno opportuno, ma noi già da oggi, mi preme anche dire, altrimenti noi già da oggi collaboriamo con le forze dell'ordine e qualsiasi anomalia riscontrate la denunciate, noi la comunichiamo. Benissimo. Tengo anche a precisare per ultimo che noi abbiamo delle procedure che non consentono a chi che sia poter diventare titolare di un'impresa all'interno del mercato. Bene, devo interrompere un secondo la Rocca perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Torneremo ancora su questi temi, statene certi cari radioascoltatori, e lo dico anche ai radioascoltatori in particolar modo della provincia di Latina. Grazie regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggin, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. We'll be right back.